Ad alta voce. Paola Pitagora legge Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet. Traduzione di Giampiero Bona. Sovente non cenavo a casa, col pretesto di passeggiate o di inviti, e restavo con Marta. Un pomeriggio trovai con lei un giovane in divisa d'aviatore, era suo cugino. Marta, a cui non davo del tu, si alzò e venne a baciarmi sul collo. Suo cugino sorrise del mio imbarazzo. «Davanti a Paul niente da temere, tesoro mio», lei disse. «Gli ho raccontato tutto». Ero imbarazzato, ma lietissimo che Marta avesse confessato a suo cugino che mi amava. Quel ragazzo simpatico e superficiale, che aveva solo in testa la sua uniforme fuori ordinanza, pareva incantato da questo amore. Ci vedeva una bella burla fatta a Jacques, che egli disprezzava, perché non era né aviatore né frequentatore dei bar. Paul evocava tutti i giochi d'infanzia di cui era stato teatro il giardino. Faceva domande, avido di quell'argomento che metteva Marta sotto una luce improvvisa. Al tempo medesimo provavo tristezza, giacché ero troppo vicino all'infanzia per dimenticarne i giochi sconosciuti dai genitori, sia che gli adulti abbiano perso ogni ricordo di quei giochi, sia che essi li considerino un male inevitabile. Ero geloso del passato di Marta. Avendo raccontato a Paul, ridendo, l'astio del padrone di casa e il ricevimento dei Marin, egli ci propose scherzosamente il suo appartamento da scapolo a Parigi. Notai che Marta non osò confessargli il nostro progetto di vivere insieme. Capiva che lui incoraggiava il nostro amore in quanto divertimento, ma che avrebbe urlato coi lupi il giorno di uno scandalo. Marta si alzava da tavola e serviva. I domestici avevano seguito la signora Granger in campagna, perché sempre prudente Marta sosteneva di voler vivere come Robinson Crusoe. I suoi genitori, convinti che la figlia fosse romantica e che i romantici fossero simili ai pazzi, che non bisogna contraddire, la lasciavano sola. Restammo a lungo a tavola. Paul prendeva le bottiglie migliori. Eravamo allegri, di un'euforia che senza dubbio ci caratterizzava, perché Paul si comportava come il confidente di un adulterio qualunque. Derideva Jacques. Io, tacendo, rischiavo di fargli sentire la sua mancanza di tatto, perciò preferii unirmi al gioco piuttosto che mortificare il futile cugino. Quando guardammo l'ora, l'ultimo treno per Parigi era passato. Marta offrì un letto. Paul accettò. Diedi a Marta una tale occhiata che lei aggiunse: «Ben inteso, tesoro, tu rimani». Ebbi l'impressione di trovarmi a casa mia, sposo di Marta, e di ospitare un cugino di mia moglie, quando sulla soglia di camera nostra Paul ci diede la buonanotte, baciando sua cugina sulle guance nel modo più naturale del mondo. Fine di settembre sentii che lasciare quella casa era davvero lasciare la felicità. Ancora qualche mese in stato di grazia e avremmo dovuto scegliere: vivere nella menzogna o nella verità. Poiché era importante che Marta non venisse abbandonata dai genitori prima della nascita di nostro figlio, finalmente mi decisi a indagare se aveva informato la signora Granger della sua gravidanza. Mi disse di sì e di aver informato Jacques. Colsi dunque l'occasione per provare che talvolta mi mentiva, dato che al mese di maggio, dopo il soggiorno di Jacques, mi aveva giurato che lui non l'aveva toccata. La notte calava sempre più presto e la frescura della sera impediva le nostre passeggiate. Era difficile per noi vederci. Per non far scoppiare uno scandalo dovevamo essere cauti come ladri, spiare per strada l'assenza dei Marin e del proprietario. La tristezza del mese di ottobre, di quelle serate fresche, ma non abbastanza fredde per far fuoco, già alle 5 ci suggeriva il letto. Per i miei genitori, coricarsi di giorno voleva dire essere ammalati. Quel letto delle 5 mi incantava. Ero solo con Marta a letto, immobile, in mezzo a un mondo attivo. Marta era nuda, osavo appena guardarla. Sono un essere mostruoso? Avevo rimorsi per aver sciupato la grazia di Marta per vedere il suo ventre sporgere. Mi ritenevo un vandalo. Al principio del nostro amore, quando la mordevo, forse che non mi diceva «segnami», e io non l'avevo segnata nel modo peggiore. Ora Marta non era per me soltanto la più amata, il che non vuol dire la meglio amata delle amanti, ma ella prendeva in me il posto di tutto. Non pensavo nemmeno più agli amici. Li temevo invece, sapendo che essi credono di farci un favore sviandoci dalla nostra strada. Per fortuna giudicano le nostre amanti insopportabili e indegne di noi. È la nostra sola salvezza. Quando cambi musica, esse rischiano di diventare le amanti loro. Mio padre cominciò a spaventarsi. Ma avendo sempre preso le mie difese contro sua sorella e mia madre, non voleva aver l'aria di recedere. Senza metterle al corrente, le prendeva in giro. Con me si dichiarò disposto a tutto per separarmi da Marta. Avrebbe avvisato i suoi genitori, suo marito. Il giorno seguente mi lasciò libero. Indovinavo le sue debolezze. Ne approfittai. Osavo tenergli testa. L'opprimevo con gli stessi discorsi di mia madre e di mia zia, rinfacciandogli di porre in atto, troppo tardi, la sua autorità. Non aveva voluto che io conoscessi Marta? Si rimproverava da solo. Un clima tragico circolava per casa. Che esempio per i miei due fratelli. Mio padre già prevedeva che un giorno non avrebbe potuto dir loro niente, nel momento in cui avrebbe giustificato la loro indisciplina con la mia. Fino allora aveva creduto a un amorazzo, ma mia madre, ancora una volta, aveva intercettato una lettera. Trionfante, gli portò quei documenti del suo processo. Marta parlava del nostro avvenire e del nostro bambino. Mia madre mi considerava ancora un lattante per attribuirsi ragionevolmente un nipotino o una nipotina. Le sembrava impossibile di essere nonna alla sua età. In fondo per lei era la prova migliore che quel marmocchio non era mio. L'onestà può raggiungere i sentimenti più disinvolti. Mia madre, nella sua profonda onestà, non poteva ammettere che una moglie ingannasse il marito. Quest'atto rappresentava per lei una tale imprudenza che non poteva trattarsi d'amore. Che io fossi l'amante di Marta voleva dire per mia madre che lei ne aveva altri. Mio padre sapeva quanto falso può essere un simile ragionamento, ma lo utilizzava per gettare un'ombra nel mio animo e sminuire Marta. Mi fece credere che io fossi il solo a non saperlo. Replicavo che era calunniata a quel modo per via del suo amore per me. Mio padre mi assicurò che quei pettegolezzi erano precedenti al nostro rapporto e persino al matrimonio di lei. E quando non rientravo per parecchi giorni, spediva la cameriera da Marta con uno scritto per me ordinandomi di tornare a casa. Altrimenti avrebbe denunciato la mia fuga al commissariato di polizia e perseguitato la signora Marta Lacombe per corruzione di minorenne. Marta salvava le apparenze, assumeva un'aria stupita, diceva alla cameriera che mi avrebbe consegnato la lettera alla mia prima visita. Rincasai poco dopo, maledicendo la mia età. Mi impediva di appartenere a me stesso. Mio padre non aprì bocca, neppure mia madre. Sfogliai il codice, senza trovare gli articoli della legge riguardanti i minorenni. Con notevole incoscienza non credevo che la mia condotta potesse portarmi a un istituto di correzione. Alla fine, dopo aver esaurito inutilmente il codice, mi rimisi al Grand Larousse, in cui rilessi 10 volte la voce minorenne, senza scoprire nulla che mi riguardasse. L'indomani mio padre mi lasciò nuovamente libero. Per chi volesse indagare sui moventi del suo strano comportamento, li riassumo in poche righe. Mi lasciava fare a modo mio, poi se ne vergognava. Minacciava, furioso più con se stesso che con me. In seguito la vergogna di essere montato in collera lo induceva a mollare le redini. La signora Granger era stata in guardia al suo ritorno dalla campagna dalle insidiose chiacchiere dei vicini. Facendo finta di credere che fossi un fratello di Jacques, la mettevano al corrente della nostra vita in comune. Siccome d'altra parte Marta non poteva fare a meno di dire il mio nome anche per un niente, di riferire cose che avessi fatto o detto, sua madre non dubitò a lungo sull'identità del fratello di Jacques. La perdonava ancora, sicura che il bambino, creduto di Jacques, mettesse fine all'avventura. Non raccontò nulla al signor Granger per paura di una scenata, ma accreditava tale discrezione a una grandezza d'animo di cui era opportuno avvertire Marta finché gliene fosse grata. Allo scopo di dimostrare a sua figlia che lei sapeva tutto, la bersagliava senza sosta, parlava per sottintesi e tanto goffamente che il signor Granger, solo con la moglie, la pregava di risparmiare la loro povera piccola innocente, che quelle continue insinuazioni avrebbero finito per fare uscire di senno. Al che la signora Granger rispondeva talvolta con un semplice sorriso, in modo da fargli intendere che la loro figlia aveva confessato. Quell'atteggiamento, il suo atteggiamento precedente, fin dalla prima permanenza di Jacques, mi inducevano a supporre che la signora Granger stesse abbandonando del tutto sua figlia per la sola soddisfazione di dar torto a suo marito e a suo genero, le avrebbe dato ragione davanti a loro. Sotto sotto la signora Granger ammirava Marta nell'ingannare il marito, cosa che lei stessa non aveva mai avuto il coraggio di fare, sia per scrupolo sia per mancanza d'occasioni. Sua figlia la vendicava di essere stata, lei lo credeva, incompresa. Stupidamente idealista, si limitava a volergliene perché amava un ragazzo giovane come me e meno adatto di chiunque a capire la delicatezza femminile. I Lacombe, ai quali Marta rendeva di meno in meno visita, abitando a Parigi, non potevano sospettare di niente. Semplicemente Marta, che sembrava loro sempre più bizzarra, di più in più li disgustava. Si preoccupavano del futuro, si domandavano che mai sarebbe stata quella coppia tra qualche anno. Tutte le madri, per principio, niente di meglio augurano ai figli che un matrimonio, ma disapprovano la donna che essi scelgono. La madre di Jacques lo compiangeva quindi di avere una simile moglie. In quanto alla sorella di Jacques, la ragione principale delle sue maldicenze derivavano dal fatto che Marta era solo da tenere il segreto di una sua avventura in riva al mare. Tale sorella predicava il più buio avvenire della coppia, affermando che Marta avrebbe tradito Jacques, se non era già successo. L'accanimento di sua moglie e di sua figlia costringeva talora il signor Lacombe, brav'uomo, che amava Marta, ad alzarsi da tavola. Allora madre e figlia si scambiavano un'occhiata significativa. Quella della signora Lacombe esprimeva: «Lo vedi, piccina mia, come questa sorta di donne sanno stregare i nostri uomini?» Quella della signorina Lacombe: «È perché non sono una Marta io, se non trovo marito». In realtà la poveretta, col pretesto di altri tempi, altri costumi e del matrimonio che non si faceva più all'antica, faceva scappare i possibili mariti, non mostrandosi abbastanza ritrose. Le sue speranze di matrimonio duravano il tempo di una stagione balneare. I giovanotti promettevano di venire al più presto a Parigi a chiedere la mano della signorina Lacombe. Poi non davano più segni di vita. La principale lagnanza della signorina Lacombe, che rischiava di rimanere zitella, era forse il fatto che Marta avesse trovato marito tanto facilmente. Si consolava, al pari di suo fratello, aveva potuto farsi mettere nel sacco. In conclusione, qualsiasi fosse il sospetto delle famiglie, nessuno pensava che il bambino di Marta potesse avere altro padre all'infuori di Jacques. Ne ero abbastanza seccato. Ci furono persino dei giorni in cui accusai Marta d'essere codarda per non aver detto ancora la verità. Propenso a vedere dovunque una debolezza che era sovente mia, ritenevo, giacché la signora Granger aveva sorvolato sull'inizio del dramma, che avrebbe chiuso gli occhi fino in fondo. Il temporale s'avvicinava. Mio padre minacciava di mandare certe lettere alla signora Granger. Mi auguravo che eseguisse la sua minaccia. Poi riflettevo: la signora Granger avrebbe nascosto le lettere a suo marito, Del resto avevamo interesse entrambi che un temporale non scoppiasse affatto. E soffocavo, invocavo questo temporale. La lettera, mio padre, doveva trasmetterla direttamente a Jacques. Un giorno di rabbia in cui mi disse che era bello e fatto, gli sarei saltato al collo. Finalmente! Finalmente mi faceva il favore di far sapere a Jacques ciò che era importante sapesse. Compativo mio padre di credere che il mio amore fosse tanto fragile. E poi queste lettere avrebbero messo un fermo a quelle in cui Jacques si inteneriva sul nostro bambino. Il mio delirio mi impediva di capire quanto folle fosse quell'atto e impossibile. Cominciai a vederci chiaro solo quando mio padre, più calmo l'indomani, mi rassicurò, lo credeva lui, confessandomi la sua bugia. Lo giudicava disumano, sicuro. Ma dov'è l'umano? E dov'è il disumano? Esaurivo le mie energie nervose in viltà, in audacia, sfiancato dalle mille contraddizioni della mia età, alle prese con un'avventura da uomo. L'amore addormentava in me tutto ciò che non era Marta. Non immaginavo che mio padre potesse soffrire. Giudicavo tutto così falsamente e meschinamente che finivo per credere a una guerra dichiarata fra lui e me. Tant'è che non era più solamente per amore di Marta che calpestavo i miei doveri filiali, ma talvolta, oso ammetterlo, per spirito di rappresaglia. Non davo più molta attenzione alle lettere che mio padre faceva che capitare a Marta. Era lei che mi supplicava di rientrare più spesso a casa, di mostrarmi ragionevole. Allora sbottavo. Anche tu stai schierandoti contro di me. Stringevo i denti, battevo i piedi. Che io mi ficcassi in uno stato tale all'idea che mi avrebbero diviso da lei per qualche ora, per Marta, era il segno della passione. Quella certezza d'essere amata le dava una solidità che non avevo mai veduto in lei. Sicura che io l'avrei pensata, insisteva perché rincasassi. Mi accorsi presto d'onde veniva il suo coraggio. Cominciai a cambiare tattica. Fingevo di arrendermi ai suoi ragionamenti. Allora di colpo aveva un'altra faccia. Nel vedermi così remissivo, o così leggero, era colta dalla paura che l'amassi meno. A sua volta mi supplicava di rimanere. Tanto era il suo bisogno di rassicurazione. Tuttavia, una volta niente funzionò. Già da 3 giorni non avevo messo piede a casa dei miei e manifestai a Marta la mia intenzione di passare ancora una notte con lei. Ella fece di tutto per farmi recedere da quella decisione. Carezze, minacce. A sua volta seppe perfino fingere che se non tornavo dai miei genitori, lei avrebbe dormito dai suoi. Risposi che mio padre non avrebbe tenuto in nessun conto il suo bel gesto. Ebbene, non sarebbe andata da sua madre, ma in riva alla Marna. Si sarebbe raffreddata, poi sarebbe morta, finalmente liberata di me. Abbia almeno pietà di nostro figlio, diceva Marta, non compromettere la sua esistenza per capriccio. Lei mi accusava di giocare con il suo amore, di volerne scovare i limiti. Di fronte a una tale insistenza le ribadii i discorsi di mio padre. Lei mi tradiva. Non c'è che una ragione, le dissi, che ti impedisce di cedere. Stasera ricevi uno dei tuoi amanti? Cosa rispondere a una così insensata ingiustizia? Lei si voltò. La rimproverai di non essere affatto nauseata dall'offesa. Alla fine tanto feci che lei acconsentì a passare la notte con me, a condizione che non fossi a casa sua. Per nulla al mondo voleva che i suoi proprietari potessero dire l'indomani alla persona mandata dai miei genitori che lei era in casa. Sì, ma dove dormire? Eravamo bambini, in piedi su una sedia, fieri di oltrepassare di una spanna gli adulti. Le circostanze ci innalzavano, ma restavamo degli incapaci. Sicché, per un fatto stesso di inesperienza, le cose semplicissime. E cose molto semplici invece diventavano ostacoli. Non avevamo mai osato servirci dell'appartamento da scapolo di Paul. Non pensavo che fosse possibile spiegare alla portinaia, passandole una mancia, che ci saremmo andati qualche volta. Eravamo dunque costretti a dormire in albergo. Non c'ero mai andato. Tremavo all'idea di varcarne la soglia. L'infanzia cerca pretesti. Sempre sollecitata a giustificarsi davanti ai genitori, mente fatalmente. Persino in faccia a un cameriere d'albergo guercio, pensavo di dovermi giustificare. Per questo, col pretesto che ci occorresse un po' di biancheria e qualche oggetto di toilette, obbligai Marta a fare una valigia. Avremmo chiesto due stanze. Ci avrebbero creduto fratello e sorella. Mai e poi mai avrei osato chiedere una stanza sola. Esposto com'ero alla mia età, età in cui ci si fa sbattere fuori dai casini, alle mortificazioni. Il viaggio alle 11 di sera fu interminabile. C'erano due passeggeri nel nostro vagone. Una riaccompagnava suo marito, capitano, alla Gare de l'Est. Il vagone non era riscaldato né illuminato. Marta appoggiava il capo con il finestrino di appannato. Ella subiva l'arbitrio di un ragazzo crudele. Mi vergognavo assai e soffrivo, pensando quanto Jacques, sempre così tenero con lei, meritasse più di me d'essere amato. Non mi trattenni dallo scusarmi, sottovoce. Lei scosse la testa. Preferisco, sussurrò, essere infelice con te che felice con lui. Ecco parole d'amore che non vogliono dire niente e che ci vergogniamo di riportare, ma che ci inebriano se pronunciate dalla bocca amata. Credetti perfino di capire la frase di Marta. Tuttavia, cosa significava esattamente? Si può essere felici con qualcuno che non si ama? E mi domando ancora se l'amore ti dà il diritto di strappare una donna a un destino forse mediocre, ma pieno di quiete. Preferisco essere infelice con te. Quelle parole racchiudevano un inconsapevole rimprovero. Indubbiamente Marta, giacché mi amava, aveva conosciuto vicino a me ore delle quali con Jacques non aveva idea. Ma si scordava di essere felice. Mi davano il diritto di essere crudele. Paola Pitagora ha letto Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.